Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre e dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. Questa era la disconnessione del nostro mini jack che passava da un PC portatile a un dispositivo di due ragazzi che casualmente sono riusciti ad intercettare al volo qua in Piazza Puntoni. Beh, intanto ciao a tutti, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Siamo sempre in diretta da Aelia Media. Questa è Strade Casuali, io sono Babe. In diretta da Piazza Puntoni, dentro uno strano chiosco, e questo strano chiosco in parte funziona, perché fino a pochi secondi fa ero qua, che mi dicevo, qua non si fa vivo nessuno, non è propriamente un punto di estremo passaggio alle 7 di sera, quindi che fare? Al massimo mi auto-intervisto, infatti mi ero portato il mio fedele riproduttore musicale digitale. E invece no, ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Questi due ciao sono due ragazzi che si sono avvicinati al chiosco testimoniando che il chiosco funziona. Funziona bene perché... Spacca di brutto. Si sente. Ecco, spacca di brutto è una buona definizione. Si sente. Si sente in piazza, si sente in streaming su Ustream, canale Ustream di Aelia Media. Si vede di brutto. No, la visione l'ho tolta perché ci sarebbe sempre stata la mia facciona in diretta che insomma non è sto granché. E poi diventa noioso. Molto meno noioso spero sia il programma musicale di questa sera, dopo tante chiacchiere e un po' di musica per concludere, direi, speriamo, in bellezza la serata. Siamo già a 3 ore che parliamo, ho intercettato voi due che intanto presentatevi, come vi chiamate? Prego maestro, prima lei. Allora io mi chiamo Francesco Pinto e faccio l'ultimo anno di superiori. E sono di Bologna, 19 anni, e nel tempo perso faccio la radio e cos'altro dire? Prego, dottore. Io mi chiamo Sharma Hosseini, nome un po' particolare perché mio padre viene dall'antica Persia e mia madre è di Roma, studente di ingegneria gestionale qui a Bologna, l'ingegneria dei nulla facenti. No. L'ingegneria dei product manager, ma è un altro discorso. Vabbè, lasciamo perdere. Ingegneria gestionale, sì, qui all'Università di Bologna, assieme al mio amico, lui è il mio regista, io sono lo speaker, che facciamo un programmino, non diciamo dove. Quindi cascate a fagiolo, no? Esatto, anzi, ma, diciamo pure dove. Su almaradio.it. Che sarebbe? La radio, tra virgolette, dell'università. Cioè finanziate con la web radio dell'università, però ci sono ancora dei problemi, dicono. Poi io sono un umile dipendente lì. Ah, quindi sei addirittura assunto? Certo. Cioè, abbiamo fatto un provino, poi li scelgono in base ai provini, sono presentati parecchi. Noi avevamo questa occasione qui, avevamo già delle esperienze, io in FM, lui in web radio, anche in web radio, e abbiamo deciso di fare questo salto, se tra virgolette si può definire salto, perché la radio in sé oramai, soprattutto dai giovani, è poco ascoltata e quindi la forza della web radio è che tutti stanno su Facebook in sostanza e quindi si possono interagire. Però ce ne sono tante. Esatto. Quindi non so poi in quanti vi ascoltino, è demergere del mucchio. Esatto. Diventa un po' difficilotto. Comunque, l'idea di questa trasmissione era quella di intercettare le musiche che i passeggiatori di Bologna o i passeggiatori di questa zona di Bologna portavano con sé e magari si ascoltavano con le cuffiette. Voi addirittura venite da una trasmissione, mi avete detto, proviamo a far sentire le musiche che addirittura avete in un telefono cellulare, prodigi della tecnica. Proviamo? Sì, faccio l'annuncio? Certo. Molto radio. Certo, siamo in radio. 8:30 di Nino Rota, che è del celebre film 8:30 di Fellini, e questa è la colonna sonora, una canzone che mi piace molto, mi mette un'allegria. Maestro, lei ha qualcosa da dire? No, lasciamo parlare la musica. Lasciamo parlare la musica. Mando in play. Prego. Mm. addirittura Nino Rota. Beh, chi è che non si ricorda sto brano? Chi è che non ha visto 8 e mezzo? Beh, magari un sacco di gente. Comunque, cominciare la trasmissione con un brano così famoso, niente male, ragazzi. Ah, e poi comunque non me lo sarei mai aspettato. D'altronde, strade casuali, più casuali di così. Esatto. Nino Rota da due ragazzi attorno ai 20, considerando che questo film è stato fatto 50 anni fa. Esatto. Ma è un film poi bellissimo in sé, che si dice che sia il, come dire, il padre di tutti i film, il Federico Fellini e tutto quanto, tutte le voci attorno a Fellini che si vede. Questo è un brano che avete utilizzato nella vostra trasmissione? Ma sinceramente... O che ti ascolti tu a passeggio? Questo è più da passeggio, cioè... Ti dirò, io l'ascolto così perché mi fa sorridere, è una canzone che mi fa molto sorridere. Beh sì, effettivamente è molto bella. È piacevole all'ascolto e fa anche sorridere, ma non un sorridere umoristico alla Elio e le storie tese o alla Jam Boy, ma un sorridere proprio felice. Anche perché penso che riprenda tratti della musica circense, quindi... Esatto. Quindi voi, dicevamo, voi passeggiate con le cuffie? Io per di Bologna. Brutto ce l'ho da quando la mia ragazza le ha regalate, ce le ho sempre. Quindi se non le rompo. Ti isoli dall'ambiente sonoro bolognese. È brutto da dire, sì, perché molte volte mi aiuta anche a non contare il tempo, nel senso che devo andare da un tratto all'altro, ascolto la musica, mi passa più veloce il tempo, assolutamente. Te? E poi ti mangio la parola, sempre. No, io ultimamente cerco di ascoltarle meno possibile la musica collettore, perché mi sono accorto che è più interessante ascoltare, non so, i suoni della natura, anche i rumori della strada, anche quella è, diciamo, è musica, tra virgolette. Ah, è un ambiente sonoro, ovviamente, sì. Sì. Poi a volte diventa rumore quando se ne sovrappongono troppi, però questo era l'intento. Andiamo avanti, avete un altro brano? Poi se uno fa sempre radio, cioè anche ascoltare la musica. Ah sì, ecco. Questo è vero. Il prossimo pezzo è un pezzo dei Valves. Questo è il nome di una band che saluto, Pierdagno Forni, il cantante principale di questa band. Si chiamano Valves e loro sono con la Mocambo, con una casa discografica indipendente. Quindi è tutto quel genere di... È fallita. Di... Ma sono bolognesi? È fallita, sì, Mocambo. È fallita la Mocambo. Sono bolognesi? Sì, sì, sono bolognesi. La canzone si chiama Concerto, è stata dedicata ad una ragazza, non diciamo quale. Potete anche dirlo, non è che... Vabbè, alla fidanzata del cantante, e è una canzone molto bella, italiana, quindi potete sentire anche il testo. Potete andare a comprare il disco dei Valves, da disco d'oro, lo trovate tra le novità indie italiane. E poi diteci voi come vi sembrano, perché a noi piacciono molto, poi il responso al pubblico è sempre importante. Concerto dei Valves, posso far partire? Go. Prego, maestro. Cause I've been seeing your body. Beh, questa sì che è una situazione tipicamente bolognese. Qualcuno che passa e passa da, con musica da, che va da Nino Rota, quindi uno straclassico, a una band locale bolognese pressoché immagino sconosciuta. Non so quanto siano conosciuti. Beh sì, abbastanza sconosciuta. Speriamo che non mi senta Danio. Beh, ma è bello di avere la potenzialità di un lettore digitale dove puoi inserire, esatto. Non hai più, non devi più portarti in giro le cassette a nastro, per chi se le ricorda, con i vecchi Walkman, ma sono pochi file, non pesano nulla, quindi puoi mettere un po' di tutto. Immagino facciate più o meno così. Sì, sì, sì, sì. Tu sei mai tornato? Perché lui è un amante molto della musica vecchio stile, lui fa anche il DJ, cioè è la parte più tecnica, io sono la parte più fancazzista, si può dire. Lui è la parte molto più tecnica di me. Quanto riguarda il mondo radiofonico, tu sì, diciamo che è quello che ne sa, in poche parole è quello che ne sa. Mi piace molto andare a comprare i CD o se riesco anche i vinili addirittura. Sì, perché comunque il supporto digitale secondo me non è sicuro. Metti caso che perdi il computer, perdi come si rompe, si rompe, perdi tutti i dati, cioè io mi sparerei. Eh sì, sono bit alla fine. Quindi ho il CD, quando perdo, quando ho bisogno del CD lo riascolto, lo carico, lo ricarico sul computer ed è fatto. Siamo noi che siamo troppo poco agili e non abbiamo un lettore CD con noi, però in effetti in qualche modo si potrebbe fare con un lettore CD-ROM di computer, si può sempre rimediare. Bene, passiamo oltre. Avete un altro brano da proporci? Boh, sì. Questa o... Voglio OK Go. Questa. Dai, c'è questa qua. Metti questa. Sex Loves di Beck. Un pezzino degli anni 90 che spacca. Siamo già alle Bible. Calendar. Questa era conosciuta, questa la conoscevo anch'io. Sconosciutissima, cioè. Ops. Back sul album Sex Laws. Sex Laws, l'album 97, 98, giù. Sì, qualcosa del genere. Io amo più la musica anni 90 fine, anni 90 inizio, ma anni 90 centro non riesco. Beh, vabbè, è uscito praticamente di tutto in tutti quegli anni. Comunque, esatto. Scavando, grazie alle tecnologie, si può trovare veramente una quantità industriale, roba che io quando ero monello, tra virgolette, non trovavo, perché non trovavo i CD, perché erano di importazione americana, invece ora, anche se sono passati 15 anni o 20 o 10, li trovi. Eh sì. E questa è una grande opportunità per chi fa radio, per esempio, per chi passeggia. Insomma, per chi vuole proporre, scambiare, poi magari non c'è più il fenomeno del ti faccio la cassettina, ti faccio la compilation. Per chi vuole anche passare qua e mettere un pezzo, si faccia avanti. Esatto, questo lo diciamo sempre. È un messaggio bellissimo. Ricordiamo sempre che siete in diretta su Ustream, canale Aelia Media, oppure su aeliamedia.org, potete sempre seguirci. Ora, se riusciamo, andiamo con un altro brano, salvo inghippi tecnici. No, continuiamo a chiacchierare. Ma no, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Sì. Allora proviamo. Che si chiama, però dovete presentarlo. Ah, ok, il pezzo è degli Air, questo duo francese famosissimo degli anni 90, e la canzone è presa dall'album Moon Safari, il primo album. La canzone è, non mi ricordo, no, è Mike Mills, no, è presa da Talkie Walkie. Ho scazzato, perché c'era la copertina... è uno dei problemi in inganno, perché è uno dei problemi di non avere il supporto fisico in mano, altrimenti avresti visto la copertina e magari avrei letto anche le note, i crediti. Certo, il produttore magari era un remix, chi lo sa? Non lo sapremo mai. Sì, infatti. Proviamo. Va? No, sento un rumore di fondo, ma niente più. Ha sentito un gran... ho visto tipo un'onda da oscilloscopio, tipo un su e giù, e poi non ho sentito più niente. Ma ragazzi, ma com'è che avete cominciato a fare radio? Mi avete appena finito di dire che i giovani non ascoltano più la radio. Vai te o vado io? Come è iniziata la radio? La radio è iniziata per caso, per gioco, perché c'era questo gruppo di ragazzi che avevamo uno studietto qua dietro, via Marsala, che mi avevano contattato per il fatto che ero diventato rappresentante di istituto, per dirti, e quindi potevo attirare più persone qualora che mi ero creato una, tra virgolette, micro immagine così. È stato Francesco che mi ha contattato e mi ha detto: ma c'è questa web TV, perché non fai un tuo brano, tutto quanto, ma lo spieghiamo dopo il pezzo? Raccontiamolo dopo il pezzo magari. Thank you. Questi erano Air. Dicevamo, com'è che avete cominciato a fare radio? Perché vi è venuto in mente, peraltro? Vado io? Sì, vai. Allora, la radio è nata, come dicevo prima, per gioco. Per gioco, come visto come un mondo esterno e irraggiungibile. E poi tramite le web radio, e quindi comunque la potenza delle web radio, che sono, diciamo, prêt-à-porter. E quindi chiunque può fare qualcosa attraverso vari programmi, anche Spreaker si chiama, un giochino, è proprio più un giochino che un programma serio. Si inizia a fare la propria puntatina, inizia a parlare le tue cose, e comunque se c'è anche una parlantina un po' vogliosa è di buon auspicio. Ah, certo. E quindi da cosa nasce cosa, alla fine ho detto, ma chissà se si può approfondire questa passione e farla diventare una professione. Professione impossibile, perché il mondo della radio è molto difficile entrare e farlo diventare professione. Però per adesso passione e hobby rimane. E quindi si cerca sempre di parlare, cercare di far tornare di moda la radio, perché una volta era anche di moda. Ci stiamo provando anche noi. Beh, comunque ragazzi, vi ringrazio molto. Vi invito a ritornare. Io sarò qui anche questo venerdì alle 5 e questa domenica alle 7 di sera, quindi se volete venire tornate pure. Siamo qui in Piazza Puntoni, lo ricordo sempre, anzi mi fanno cenno addirittura di ricordarlo, la memoria ogni tanto fa qualche scherzo. Abbiamo addirittura già un altro ospite. Grazie ragazzi intanto e ci rivediamo. Grazie a te, ciao. Beh, dicevamo altro ospite, intanto buonasera, un altro che si porta musica appresso. Buonasera a tutti, ciao ragazzi, porto musica appresso ma apposta per questa bella esperienza, questa bella esibizione. Sì, questa è una cosa più telefonata, diciamo. Ho detto, questa è una prenotazione proprio. Perché non vieni mercoledì sera in radio, che siamo in piazza, già che ci siamo, proviamo a farlo dalla piazza. Certamente, proviamo e faccio i complimenti per lo spazio veramente bello. Chi ha modo, secondo me, dovrebbe passare per Piazza Puntoni a vedere tutta la postazione che è stata tirata su. Sì, infatti invitiamo tutti a venire a Piazza Puntoni, oltre che a seguirci su Radio Kairos, su Radio Fujiko, su Città del Capo e su aeliamedia.org. Invitiamo tutti a venire qua a partecipare alle nostre trasmissioni, ai nostri dibattiti, e anche a portarsi dietro un po' di musica, come nel nostro caso. Beh, intanto però non ti sei ancora presentato. Io mi chiamo, sono Alessandro. Cosa fai qua a Bologna? Qua a Bologna lavoro, sostanzialmente lavoro, infatti sono reduce dalla mia giornata di lavoro in ufficio. E poi cosa fai? Fai anche altro? Se hai tutta questa musica sul computer? Insomma, vado sempre a Bartleby, vado sempre al TPO, vado sempre così, vado in giro. Vaghi per centri sociali. Vago, mi piace molto. E poi la musica come funziona per te? La musica funziona in maniera abbastanza istintiva, nel senso che soprattutto è un periodo in cui sto scrivendo un sacco di canzoni. Allora no, allora non è solo, non lavori solo, è istintivo pure. Nel senso che io tipo oggi che ero nell'autobus, no, pensavo, ti ricordi quei film in cui il protagonista sente i pensieri della gente, tipo quelle cose del cielo sopra Berlino? Sì. Se qualcuno mi passasse accanto, quelli sentirebbe, erano angeli. Quelli erano angeli, ma se un angelo mi passasse accanto, sentirebbe io che faccio tutum tutum tutum tum pam pam tum pam pam tum pam pam, che penso delle cose della musica canzone. Ci stanno anche fotografando, ormai siamo fotografando delle celebrità. Allora sorridiamo. Sorridiamo, mi sa che quello che si sta fotografando poi subentrerà al microfono. Comunque, dicevamo. E comunque così. E anzi, sia musica suonata con degli strumenti veri. Ma quindi ci farai ascoltare delle cose che hai composto tu? No, sono un po' impreparato su questo. Su questo versante, da beh, questo allora, punto di vista. Beh, dopotutto siamo a strade casuali. E visto che è stato un caso questo incontro. E vai, mettiamo qualcosa di casuale. Mettiamo qualcosa di casuale? Sì. Tipo? Tipo, io proseguirei sugli anni 90, 93, 94, 95. Ma dopotutto sono passati 20 anni, revival a buco. Metterei quelle cose che faceva John Garcia con i suoi amici. Tipo i Caius. Potrebbe andare bene. Forse sfondiamo le casse. Dai, ci proviamo almeno il pezzo d'apertura. Io ci sto. Elia Media. Media. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. www.aeliamedia.org